Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gentiloni in Parlamento, azione in Libia solo con l'ok appunto di deputati e senatori. Non abbiamo pagato, dice il ministro degli esteri, nessun riscatto per i tecnici rapiti in Libia. Intanto c'è ancora incertezza sul rientro delle salme. Anche la Macedonia ha chiuso i confini e li chiude anche ai siriani. Il blocco della frontiera in Slovenia invece è iniziato a mezzanotte. A di domeni sono fermi in 14.000. Credit Suisse indagata a Milano, si ipotizza la frode assicurativa, verifiche su migliaia di contribuenti italiani che avrebbero portato all'estero 14 miliardi di euro. In corso l'interrogatori dei due rei confessi per l'omicidio di Luca Varani a Roma. Oggi i legali presenteranno la richiesta di esami tossicologici e perizie psichiatriche. A Napoli ancora polemica aperta sulle primarie dopo il ricorso di Bassolino. Valente a Radio 24, mi aspetto che l'ex sindaco collabori con me per battere De Magistris. Firenze fa discutere l'ordinanza del comune. Negozi, supermercati e ristoranti potranno aprire in centro solo se avranno il 70% di prodotti toscani. Lo chiamavano il quinto Beatle, è morto George Martin, il produttore che contribuì a creare la band di Liverpool e il loro mito. McCartney dice: per me è stato un secondo padre. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp, e effettogiorno@radio24.it per scriverci. Vi do conto intanto di una notizia appena battuta dalle agenzie, una sentenza attesa della Corte Costituzionale che ha deciso sostanzialmente che la coltivazione di cannabis per uso personale resta punita penalmente. Stiamo cercando in questo momento uno degli avvocati che si è occupato di questa vicenda e ce la faremo spiegare un po' meglio. Intanto apriamo andando a parlare di Libia, dove due vicende si incrociano: da una parte la possibilità di un intervento militare italiano e non solo italiano, internazionale evidentemente nel paese, dall'altra parte la vicenda degli ostaggi italiani, i due rientrati in Italia e i due che hanno perso la vita. Tra l'altro sarebbe in corso in queste ore l'autopsia in Libia e forse finalmente oggi, dopo i tanti annunci di ieri, le salme potranno tornare in Italia. Vediamo di fare un punto anche sull'informativa del ministro degli esteri, della quale vi accennavamo già nei nostri titoli, con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, e partiamo da quest'ultima. Un lungo applauso dedicato ai nostri connazionali uccisi in Libia ha preceduto allora l'informativa in aula a Palazzo Madama del ministro degli esteri. Gentiloni ha subito voluto chiarire: per i quattro italiani rapiti non è stato pagato alcun riscatto. Quanto alla dinamica dei fatti, che in poco più di 24 ore ha visto prima la morte di Failla e Piano e poi la liberazione di Pollicardo e Calcagno, Gentiloni ha detto: non risulta fosse imminente la liberazione degli ostaggi, come non risulta siano stati trovati nel nascondiglio passaporti appartenenti ad elementi di Daesh. Il ministro degli esteri ha affrontato quindi il nodo di un possibile intervento italiano in Libia ed ha chiarito in questo modo. Sentiamo. Il governo interverrà se e quando possibile per rispondere alle richieste di sicurezza di un governo legittimo e impegnato a riprendere gradualmente il controllo della sovranità del proprio territorio. E lo farà su decisione del Parlamento e coordinando le forze alleate. Il governo non si farà trascinare allora in avventure inutili e perfino pericolose per la nostra sicurezza nazionale, ha detto ancora Gentiloni, che ha parlato di 5.000 combattenti ISIS in Libia. Il percorso per arrivare ad un governo di unità nazionale è un percorso fragile, ha concluso il ministro, ma per quanto fragile, questa è la sola base su cui lavorare. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Dunque la Libia è un'altra area di crisi dalla quale provengono molti dei migranti che stanno approdando alle porte dell'Europa, o almeno un punto dal quale evidentemente transitano. Prosegue anche oggi, come per tutta la settimana, il viaggio che stiamo dedicando all'epicentro di questa crisi, ossia la Grecia. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del campo profughi di Idomeni, e a Idomeni torneremo tra un attimo, al confine con la Macedonia, Macedonia che ha annunciato di aver chiuso i confini. Ma prima andiamo ad Atene per fare un punto su quello che sta succedendo anche là in città con la nostra Valeria De Rosa, la nostra inviata. Valeria, eccoci. Sì, buongiorno Simone, a te e ai nostri ascoltatori. Vi parlo appunto da Atene, e in città bisogna dire quasi potresti non accorgerti di quanto sta succedendo in tutta la Grecia. Come sempre Atene mantiene una grande dignità anche in un momento di crisi, perché ricordiamo che questo è un paese che continua ad affrontare una crisi economica che resta spaventosa. Sinceramente poi, spostandosi più a sud, quindi verso il Pireo, la situazione cambia. Cambia, è diversa, perché i migranti sono stati sistemati nell'estremità più a nord del porto, che è, diciamo, quella un po' meno raggiungibile, e sono addirittura divisi già per nazionalità. Sono abbastanza abbandonati a se stessi, perché la sistemazione al Pireo è una sistemazione scelta dal governo, ma non presidiata del tutto dai ministeri. Soprattutto gli afghani versano in una condizione ancora più difficile degli altri, perché intanto per il fatto di pannone, che è piuttosto fatiscente, e poi perché sicuramente saranno i primi ad essere rimpatriati. Lì dove sono ospitati io ho incontrato... Allora, stiamo perdendo Valeria De Rosa, abbiamo problemi di linea. Quello che stava cercando di dirci è che appunto in quel luogo ha incontrato un volontario italiano del quale possiamo sentire la voce. Ma qui dentro, in questo edificio qui, dovrebbero essere sui 300 persone più o meno. E sono tutti afghani? Sì, tutti Afghanistan. Ma io credo che li abbiano divisi per fare una selezione, insomma, diciamola così. Per fare una selezione da chi realmente è venuto qua perché sta scappando dalla guerra a chi invece è un emigrato economico. Doccia non ne hanno, io ho sentito adesso che stanno arrangiando il sistema per fargli andare a farsi una doccia nella barca che c'è parcheggiata qua davanti, perché questa l'ha messa qui per coprire un po' la visuale. Questo dunque è il racconto della nostra Valeria De Rosa, con la quale, avete sentito, purtroppo abbiamo perso la linea. Speriamo che regga invece quella con Idomeni, appunto, al confine tra Grecia e Macedonia. Macedonia che ha annunciato ufficialmente di aver chiuso i confini, e dunque cerchiamo di raccontare che cosa sta succedendo, se sta salendo la tensione di Idomeni, con la nostra inviata Valentina Furlanetto. Valentina, eccoci. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Io sono sulla ferrovia Idomeni, dove adesso c'è una manifestazione. Hanno appena smesso di urlare Open the Border, aprite la frontiera, e Germania, c'è una bandiera della Germania che è stata issata qui dai profughi che si sono sdraiati sui binari e stanno cercando di bloccare la ferrovia. Ovviamente le forze di polizia greche stanno cercando di portare via queste persone, non con la forza al momento, ma parlando con loro. Non si capisce se ci sarà uno sgombero nelle prossime ore. Sicuramente le notizie che arrivano dalla Macedonia, che come dicevi ha deciso di chiudere il confine, stanno alzando la tensione, anche perché sta piovendo, la situazione anche umanitaria al campo è molto molto difficile, sempre più difficile. Noi abbiamo sentito proprio un poliziotto greco che ha studiato italiano, tra l'altro, si chiama Orges, non so se vuoi far sentire il nostro audio. Non fanno passare nessuno? Nessuno. Ma neanche ieri? Anche ieri, non è passato nessuno neanche ieri. Domani? Chi lo sa. E queste persone che aspettano qui cosa aspettano? Sperano, solo quello. Terribile, è una situazione terribile, no? Però... Sulle vostre spalle, dei greci? Ma sulle nostre spalle, diciamo. Orges chiaramente ieri non poteva sapere questa decisione della Macedonia, ma ci abbiamo parlato anche questa mattina, e dice appunto che si aspettano che possano esserci delle tensioni, che cerchino di forzare la recinzione, e in quel caso dovranno intervenire loro e i poliziotti macedoni oltre il confine, che sono già in tenuta antisommossa. Quindi la tensione è abbastanza alta, Simone. Questo il quadro da Idomeni. Dunque, io ti ringrazio, grazie a Valentina Furlanetto, anche a te per questo racconto, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Questo il quadro dunque anche dal confine greco. Veniamo ad altre vicende, vicende italiane, iniziando dalla cronaca che riguarda in questo caso un mix tra cronaca giudiziaria e cronaca finanziaria, ed è la vicenda di Credit Suisse, della quale vi accennavamo nei titoli. È stata indagata l'azienda, la società, e ci sono verifiche in corso in realtà da qualche tempo su migliaia di contribuenti italiani. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, un anno dopo le perquisizioni la Procura di Milano fa fare un altro passo in avanti all'inchiesta sulla Credit Suisse e iscrive nel registro degli indagati lo stesso istituto elvetico messo sotto accusa per la legge 231, quella sulla responsabilità amministrativa degli enti, vale a dire la norma che punisce le cosiddette persone giuridiche per non aver saputo evitare la commissione di reati. Nel caso specifico è una maxi frode fiscale da 14 miliardi di euro, quella che i PM Francesco Greco e Gaetano Ruta ipotizzano sulla base di documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza. Nel corso degli anni, cioè, migliaia di clienti della Credit Suisse, circa 14.000, avrebbero portato all'estero, tra Svizzera e Liechtenstein, i loro guadagni, sottraendoli alla tassazione nazionale. La maggior parte sono persone fisiche, diverse però anche le società. Tutti, per l'accusa, avrebbero denunciato all'estero redditi ottenuti però anche con business svolti in Italia. Al centro dell'indagine la filiale delle Bermuda della Credit Suisse e la vendita di prodotti assicurativi, polizze per nascondere capitali. I singoli casi, quelli di presunta estero vestizione o omessa dichiarazione dei redditi, sono ora uno ad uno all'esame dell'Agenzia delle Entrate, e dovrà anche verificare se ci fossero scudi fiscali o voluntary disclosure. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Restiamo sulla cronaca innanzitutto con un'altra notizia appena battuta dalle agenzie. Il procuratore capo di Campobasso, Armando D'Alterio, che questa mattina ha fatto arrestare in un centro di accoglienza a Campomarino, e siamo in provincia di Campobasso, un giovane imam somalo di 22 anni che era un richiedente asilo, ha detto: abbiamo un riscontro tecnico preciso circa la possibilità che stesse organizzando un attentato a Roma. Gli inquirenti hanno accertato che oggi il ragazzo sarebbe fuggito dalla struttura che lo accoglieva, probabilmente appunto per andare nella capitale e, da quel che riferisce appunto il procuratore capo di Campobasso, per organizzare un attentato. Vedremo quali evoluzioni ci saranno in questa vicenda. Intanto torniamo ad occuparci di quella che è stata sulle prime pagine dei giornali in tutti questi giorni, ed è l'omicidio a Roma di Luca Varani. Sono in corso gli interrogatori di garanzia dei due arrestati e rei confessi. Ci colleghiamo con Giorgio Stamatopoulos, che si trova davanti a Regina Celi, proprio nell'attesa, immagino, anche dei legali. Giorgio, eccoci. Sì, buongiorno Spezia, buongiorno a tutti, in compagnia di tanti altri cronisti e cameraman qui per un interrogatorio, quello di Manuel Poffo, che probabilmente è tuttora in corso, mentre l'altro, quello di Marco Prato, non è ancora nemmeno cominciato. A confermarcelo pochi minuti fa il suo avvocato Bartolo, che era anche visibilmente, insomma, contrariato da questa circostanza. Interrogatori per confermare, per trovare delle conferme che in parte sono già arrivate alla prima confessione, quella fatta a caldo subito dopo l'omicidio da Manuel Poffo, convinto dal padre, come sapete, a costituirsi dopo qualche ora dall'efferato delitto. Vi ricordo che entrambi gli arrestati sono accusati di omicidio premeditato con l'aggravante della crudeltà. E l'avvocato Andreano, invece, l'avvocato di Manuel Poffo, ha detto questa mattina, poco prima di entrare appunto nel carcere di Regina Celi per gli interrogatori, di voler chiedere un esame tossicologico del suo assistito, perché proprio sulla qualità e la quantità delle droghe assunte si gioca parte di questa vicenda. Gli investigatori non a caso hanno infatti deciso di analizzare la cocaina per capire se fosse stata tagliata con altre sostanze, come per esempio è spuntato il nome di quest'altra droga nota già da qualche tempo, GHB, meglio nota come la droga dello stupro, una potente Viagra, diciamo così, con effetti collaterali tutti da accertare. Mentre alcune conferme, dicevamo, sono già arrivate alla prima confessione di Poffo, perché è stato rintracciato uno dei ragazzi che sono stati invitati nel corso di quella due giorni all'insegna di cocaina e alcol, e che sono usciti, diciamo così, indenni da quella casa. Risvolti più inquietanti di questa storia però riguardano appunto il PR Marco Prato, che in una lettera scritta durante il tentativo di suicidio scrive di come la sua vera l'ambizione frustrata dall'opposizione della famiglia fosse quella di diventare donna. E infine vi aggiungo anche quest'altro dettaglio, che sul movente si riapre la questione, perché potrebbe non essere solo quello già raccontato in questi giorni, come ricordavi, su tutte le prime pagine dei giornali, uccidere qualcuno per vedere l'effetto che fa, ma sarebbe stato piuttosto la conseguenza del rifiuto da parte del giovane Varani di fare sesso a tre per la cifra pattuita. Voleva insomma molti più soldi, da lì sarebbe scattato il gioco crudele culminato appunto con l'omicidio. Per il momento è tutto qui da Regina Celi. Grazie Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento. Per quanto riguarda la politica, resta aperta la polemica sulle primarie a Napoli. Dopo i video nei quali si vedono persone passare dei soldi alla gente in fila, Antonio Bassolino, il candidato sconfitto, come sapete, come abbiamo raccontato, ha annunciato ricorso. Questa mattina Valeria Valente, invece la candidata vincente, è intervenuta a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli, e dice: beh, io a Bassolino chiedo in realtà di collaborare per battere De Magistris. Sentiamo. Senta, onorevole Valente, ma dopo la vittoria alle primarie Bassolino l'ha sentito? Ho provato a cercarlo, non mi ha risposto. Gli ho mandato un messaggio, ho provato a chiamarlo, non mi ha risposto. Ma avrà bisogno di Bassolino per vincere la sfida con De Magistris? Io glielo chiederò. Sarei contenta se lui volesse stare al mio fianco e come dire, contribuire al risultato. Lo dico, mi aspetto da lui che mi sostenga e che sia al mio fianco, a fianco dei napoletani in questa battaglia. Che le risponda almeno al telefono, dice. Più che mi risponda al telefono. No, dico, visto che l'ha chiamato, non ha risposto. Così dunque Valeria Valente, intervistata da Giovanni Minoli in Mix 24. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi abbiamo molti argomenti per dopo. Innanzitutto questa sentenza appena arrivata dalla Corte Costituzionale che riguarda la coltivazione per uso personale di cannabis, e poi questa vicenda del Comune di Firenze che sta facendo discutere questa decisione, come già vi accennavamo nei titoli, secondo la quale negozi, supermercati e ristoranti potranno aprire in centro solo se avranno il 70% dei prodotti toscani. Già qualcuno si chiede, insomma, dicono sì, bello, però se per esempio un grande ristoratore che fa solo sushi decide di aprire in centro a Firenze, che fai? Lo blocchi? Ne parleremo con l'assessore. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli, partendo da una decisione appena arrivata dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle regioni sulla questione delle trivellazioni che riguardavano il piano delle aree, il regime delle concessioni ed erano proposti appunto nei confronti dello Stato centrale, il Presidente del Consiglio, il Parlamento e l'Ufficio centrale per il referendum. Gentiloni in Parlamento, azioni in Libia solo con l'ok di deputati e senatori. Non abbiamo pagato, dice il ministro degli esteri, nessun riscatto per i tecnici rapiti in Libia. Intanto è ancora incertezza sul rientro delle salme, sono in corso le autopsie in Libia. Anche la Macedonia chiude i confini e li chiude anche ai siriani. Il blocco della frontiera in Slovenia invece è iniziato a mezzanotte. A di domeni sono fermi in 14.000, è in corso, come avete sentito pochi istanti fa dalla nostra inviata, un corteo. Stanno avvenendo gli interrogatori di uno dei due rei confessi per l'omicidio di Luca Varani a Roma. Oggi i legali presenteranno la richiesta di esami tossicologici e perizie psichiatriche. Infine, la morte di George Martin, il produttore che contribuì a creare la band di Liverpool. Lo chiamavano il quinto Beatle. McCartney dice: per me è stato un secondo padre. Lorenzo Simonetti, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. È un legale, avvocato insieme a Claudio Miglio, e si è occupato di questa vicenda che ha portato la sentenza della Corte Costituzionale alla quale accennavamo non pochi istanti fa, cioè non quella che riguarda le regioni, ma quella che riguarda la cannabis. Che cosa è successo? È stata sollevata una questione di costituzionalità, la faccio molto semplice, per capire se la coltivazione di 8 piante dentro un garage può essere assimilata all'uso personale e quindi depenalizzata oppure no. E la Corte Costituzionale vi ha detto di no, in sostanza. Diciamo, la Corte Costituzionale dal provvisorio comunicato stampa non ha accolto il ricorso della Corte di Appello di Brescia così come da noi sollecitata. Il punto è, avevamo poche aspettative con riferimento ad un accoglimento integrale, nel senso che rimane comunque un giudizio politico e una sentenza additiva, quindi modificativa del testo normativo, sarebbe stata molto ardua. E sì, invece dobbiamo attendere le motivazioni, e questo non è per cercare sempre il lato ottimistico, sì, della vita, ma il punto è che la Corte ha detto, così come nel solco delle precedenti decisioni, ora l'unica decisione precedente della Corte Costituzionale è del 1995, in calce alla quale si invitava il giudice di merito, quindi i tribunali subito già in primo, sì, grado, ad interpretare ogni volta quel reato di coltivazione anche per uso personale. Quindi la faccio, mi scusi Bettarini, mi scusi Simone, ti la faccio molto, prego, semplice. La Corte Costituzionale potrebbe aver detto, ma lo vedremo nelle motivazioni della sentenza, potrebbe aver detto: guardate che non possiamo stabilire un principio generale da questo, esatto, punto di vista, e dire, che ne so, se coltivi due piante è uso personale, se ne coltivi otto invece rientri nel penale, mentre invece lo deve decidere ogni singolo giudice sulla base del caso. Prego. Breve, nel 2013 abbiamo ottenuto un'assoluzione dinanzi al Tribunale Penale di Milano in primo grado per 27 piante. Ci siamo? Questo ben prima della data odierna. Cosa significa? Che il Tribunale Penale di Milano ha seguito il nostro ragionamento, e in quel caso concreto, con 18 piante, chiamiamole di sesso maschile, e 9 di sesso femminile, con un THC, ossia il principio attivo estraibile, di gran lunga superiore alla soglia, ha ritenuto quella coltivazione per uso personale, d'accordo? Sì. Quindi, prima di questa decisione, ora, è importante invece attendere le motivazioni, perché qualora il giudice spendesse in questa volta... Mi scusi Simonetti, ma è un livello di incertezza pazzesco. Assolutamente sì, assolutamente sì, e è un problema che caratterizza tutta l'Italia, questo, da nord a sud, perché ci sono sentenze contraddittorie. Ora, questa di Milano è una sentenza che per noi è stato un precedente importante, che alcuni giudici poi hanno seguito e altri no. Chiaramente in Corte di Appello di Brescia siamo andati forti anche di questa sentenza e siamo riusciti a convincerli a sollevare. Le ripeto, l'aspettativa di una sentenza additiva, quindi modificativa del testo normativo, era bassa. Invece vorremmo vedere come il relatore Frigo, che è il giudice e il relatore della Corte Costituzionale, motiverà con riferimento al non accoglimento della questione. Della questione, perché poi le parole, certo, pesano, le parole nel diritto pesano. Ovviamente. La ringrazio. Grazie a Lorenzo Simonetti, avvocato, a insieme a Claudio Miglio, che si è occupato di questa vicenda. Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Che fate? Protezionismo alimentare nel centro di Firenze? Perché no, cioè... alimentare no, protezionismo della città facciamo. Ora è passata solo la cosa della filiera corta, in realtà noi abbiamo anche istituito una commissione che valuta la qualità del progetto. Lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, innanzitutto, che atto, sì, è? Cos'è un'ordinanza? Abbiamo fatto un regolamento in Consiglio, sì, Comunale, sì, circa 40 giorni fa, e oggi abbiamo fatto un disciplinare che è stato approvato dalla Giunta, in Giunta, nel quale definiamo alcune caratteristiche erano state, diciamo così, evocate dal regolamento. Allora, i titoli, lo dico agli ascoltatori per semplificare, i titoli che sono usciti sono questi: supermercati, mercati, negozi, ristoranti non possono aprire in centro a Firenze se non hanno almeno il 70% dei prodotti toscani. La sostanza è questa o no, Bettarini? Parte della sostanza è questa, perché ci sono diverse possibilità. Noi abbiamo sottoposto, il concetto è questo, noi abbiamo detto non tutti e non sempre si può aprire un'attività commerciale a Firenze. Abbiamo visto ci sono gravi problemi che riguardano per esempio la questione dell'alcol con i giovani, quasi 1000 ragazzi ricoverati negli ospedali fiorentini per abuso di alcol. Sì. C'è il fenomeno dei cosiddetti mini market che tutta la notte vendevano alcolici a prezzi molto bassi. Allora abbiamo fatto intanto un'azione diretta sugli alcolici, con divietando di venderli dopo le 21 di sera, quelli in bottiglia, non la somministrazione, cioè la vendita. Sì. La somministrazione si può fare fino alle 2 mattina, ossia i locali, eccetera. E poi abbiamo detto anche i negozi devono avere determinato, abbiamo cercato di elevare il livello di qualità dei negozi e dei locali di somministrazione. Come? Individuando alcune caratteristiche, 40 metri quadri di superficie minima, la presenza di un bagno per i clienti, e anche altre questioni che riguardano proprio i prodotti. Sì. Anche in questo caso ci sono due possibilità. Una è quella che è quella più facile da mettere nel titolo, diciamo, ossia la filiera corta, se sì, va bene, prodotti tipici e tradizionali. L'altra è la possibilità, abbiamo istituito una commissione che valuta la proposta commerciale se ha un livello di qualità che noi riteniamo sia sufficiente per la città. Ma mi dice una cosa, ma questo esattamente, che non riesco a capire come lo potete applicare. Adesso le faccio un'ipotesi, no? Io adesso parlo per al di là del ristorante esotico, per così dire, no? Ma io parlo per partito preso, se vuole, perché sono umbro. Sono umbro e voglio aprire un ristorante umbro nel centro di Firenze. Benissimo, e ci posso investire. E ci metto i prodotti di Bevagna. E posso farlo oppure no? Assolutamente sì. Direi l'unica cosa che deve fare, noi abbiamo rinforzato un po' il procedimento amministrativo, ossia deve presentare il suo progetto, ci dice che tipo di locale vuol fare, noi valuteremo anche il tipo di allestimento che vuol fare, verrà dato un punteggio in base al quale viene data l'autorizzazione. È chiaro che noi a Firenze è una città internazionale. Chi decide Bettarini? Cioè una commissione tecnica composta da chi? Del comune, da due esperti nelle materie che chiameremo da fuori, dal settore del privato. Ovviamente una commissione dove non ci sono politici, è chiaro. Ok, perfetto, non ci sono politici, cioè non ci saranno scelte politiche su questo. Assolutamente, ci mancherebbe. No, l'intento è quello di alzare la qualità, non di fare. No, perché mi scusi, c'è un elemento che ha detto lei che mi sembra interessante. Il punto è: Firenze è una città internazionale, appunto, no? Limitare così tanto le cose non è un po' pericoloso? Ma non sarà una limitazione, sarà un miglioramento, non sarà una limitazione in alcun senso, perché quando noi parliamo di tipicità dei prodotti ci abbiamo introdotto anche i prodotti internazionali che fanno parte di altre culture che a noi interessano tantissimo, ovviamente. Però noi osserviamo una cosa: spesso si parla della tutela, della bellezza delle nostre città, tutto il mondo ci invidia, e poi io posso aprire qualsiasi tipo di negozio e vendere vodka a 4 euro alle 2 di mattina. Questo secondo noi non va bene. Noi bisogna recuperare. Sì, questa è la parte alcolici, diciamo, il riferimento era specifico alla parte alimentare. Ma anche quello riguarda la parte alimentare. Noi pensiamo che si debba recuperare una potestà di governo, ovviamente questo non vale per tutta la città, ma solo per la zona UNESCO. È molto importante dire che lo sia, per quello che è patrimonio dell'umanità. È chiaro che da altre parti il principio di liberalizzazione vale e è completamente applicato. Però noi diciamo, dove c'è Bettarini, anche immateriale. Sì, Bettarini, sì. Per chiudere, lo sa che qualcuno vi dirà che è un provvedimento che suona un po' leghista, voi che siete un'amministrazione del PD? No, questo assolutamente no. Noi diciamo, soprattutto è un provvedimento che vuole salvare la bellezza di Firenze. Ho fatto un provvedimento per la bellezza, cioè, di Firenze. Dico, fosse stata un'altra amministrazione, magari leghista avrebbero detto no, un po'. Noi non la tradizione. Un rischio di accusa di razzismo ci sarebbe stata. Noi siamo fuori da ogni sospetto. Su questo non abbiamo timori. No. Speriamo più di avere dei risultati efficaci. Grazie Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze. Una pausa, ci sentiamo tra un attimo, come sempre, per la borsa, e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di una vicenda che sta rimanendo un po' sotto traccia, e per rimanere in temi alimentari, la vicenda del glifosato. Che cos'è il glifosato? È un erbicida, il governo italiano vorrebbe una moratoria su questo erbicida, però ci sono pareri contrastanti sul fatto se sia veramente cancerogeno oppure no. Pareri contrastanti tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'organizzazione internazionale che si occupa della ricerca sul cancro, e dall'altra parte l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea. Ne parleremo con un biologo, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle regioni sulla questione delle trivellazioni. I ricorsi riguardavano il piano delle aree e il regime delle concessioni. Gentiloni in Parlamento sulla Libia, azioni nel paese solo con l'ok di deputati e senatori. Non abbiamo pagato, dice il ministro degli esteri, nessun riscatto per i tecnici rapiti in Libia. Anche la Macedonia ha chiuso i confini e li ha chiusi anche ai siriani. Il blocco della frontiera in Slovenia invece è iniziato a mezzanotte. Di domenica al momento sono fermi in 14.000 ed è in corso una protesta. Ci sono gli interrogatori dei due rei confessi per l'omicidio di Luca Varani a Roma. Oggi i legali presenteranno la richiesta di esami tossicologici e perizie psichiatriche. Lo chiamavano il quinto Beatle, è morto George Martin, il produttore che contribuì a creare la band di Liverpool. McCartney dice: per me è stato un secondo padre. Di questo parleremo tra poco, così come parleremo della vicenda che già vi annunciavo poco fa, e questo mi dà la possibilità di fare una piccola correzione. Ho detto glifosato per errore, è glifosate. Gli ascoltatori che mi scrivono su WhatsApp hanno perfettamente ragione. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo a parlare dunque di una vicenda che riguarda le nostre tavole e riguarda il glifosato, che è appunto un erbicida. Se ne discute tanto in questi giorni. Ieri una riunione a Bruxelles avrebbe dovuto dare il via libera all'estensione dell'utilizzo del glifosato per altri 15 anni, nulla di fatto a causa dello stop di Francia, Olanda e Italia, o quantomeno delle perplessità. Ci sono due pareri contrastanti su questo prodotto, per l'OMS è probabilmente cancerogeno per l'uomo, per l'EFSA, l'Agenzia per la sicurezza alimentare europea, è questo legame tra appunto il tumore e il glifosato è improbabile, e di fronte a questo, come dire, c'è una certa paralisi. Ne abbiamo parlato con Luciano Azzori, che è segretario dell'Ordine dei Biologi, per capirne un po' di più dal punto di vista scientifico. Il glifosato è una sostanza, un composto chimico, stato creato per la prima volta negli anni 50 da un chimico svizzero, e poi è stato utilizzato invece in agricoltura dalla Monsanto, che ne ha l'ha brevettato negli anni 70, 74 se non erro, ed è un erbicida che funziona molto bene, costa relativamente poco, quindi è uno dei composti chimici usati in agricoltura più diffusi al mondo. Nelle cose che mangiamo noi quotidianamente, quanto glifosato c'è? Cioè, nel momento nel quale viene utilizzato in campo, poi quanto ne passa nei nostri prodotti, nei prodotti che mangiamo ogni giorno? Noi in Italia dovremmo, in teoria, averne poco. Teoria, preciso perché. Il glifosato è molto usato con particolari coltivazioni, specialmente mais e orzo, cosiddetti GM, cioè sono dei prodotti transgenici che molto resistenti al glifosato. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui si utilizzano questi prodotti si può utilizzare il glifosato perché su di essi non agisce, ed agisce invece sulle erbe infestanti. Ma essendo in Italia vietata la coltivazione dei prodotti transgenici, in Italia se ne usa poco. Il problema è un altro, però, che in Italia arrivano, vengono importati prodotti, dove all'estero sono stati transgenici, sono stati coltivati utilizzando, tra le tante tecniche culturali, anche questo composto. Quindi arrivano. Ci sono vari studi che dimostrano, ad esempio, che si trovano anche percentuali, anche se basse, nella birra, se ne trovano in tanti prodotti che da noi arrivano. Il problema è che fondamentalmente questo prodotto viene ricercato soprattutto nell'acqua potabile o nelle acque anche superficiali o telluriche, quindi sotterranee, e dove un limite è molto, anche molto basso, 0,01 microgrammi per litro. In realtà invece in alcuni studi hanno dimostrato che in alcune acque se ne trova addirittura 300 volte la dose ammessa per legge. Dal punto di vista della pericolosità, perché qua mi sembra di aver capito che non ci sono, come dire, degli studi definitivi, nel senso che c'è, lo si ritiene, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo inserisce tra i prodotti potenzialmente cancerogeni, ma non ci sono studi definitivi anche su quanto ne bisogna assumere, per così dire, nell'arco di una vita, perché ci sia questo effetto. Studi a lungo termine, molti sono in corso, li stanno effettuando, ma non sono ultimati. E quindi è tutto un discorso aperto. Il problema è che io in questi casi ritengo, ma questa è una mia opinione, che si dovrebbe comportare in maniera precauzionale, cioè non si sa, non lo si usa. Quando si sa, se casomai si dimostra che l'uso non è così pericoloso o è accettabile, allora lo si dovrebbe usare. Così dunque l'intervista che abbiamo realizzato con Luciano Azzori, segretario dell'Ordine dei Biologi. Andiamo a sentire, ve l'avevamo annunciato nei nostri titoli, il servizio della nostra Marta Gagnola in merito all'uomo che veniva chiamato il quinto Beatle. L'appellativo di quinto Beatle è stato usato più volte nella storia, per il manager Brian Epstein, per il factotum Mal Evans, per il primo bassista Stuart Sutcliffe, ma forse il quinto Beatle fu davvero solo George Martin. Senza di lui i Beatle sarebbero stati un'altra cosa, e sarebbe un'altra cosa la musica che conosciamo oggi. Musicista, esperto di classica alla BBC, manager della EMI e poi della Parlophone, il 6 giugno 1962 fa il provino ai Beatles, li trova molto simpatici. Registra e produce i loro album, anche se la produzione di Let It Be è firmata da Phil Spector. Arrangia quasi tutte le loro canzoni, con un litigio su She's Leaving Home. Sostituisce Pete Best con Ringo Starr. Trascrive le idee di Lennon e McCartney, percependo soltanto lo stipendio base di dipendente della EMI e senza ottenere alcuna royalty dalle vendite dei dei dischi dei Beatles, finché nel 65 fonda la sua Air. Dopo i Beatles collabora con Jeff Beck, gli Ultravox, Elton John, gli America, Celine Dion, il Paul McCartney solista e con gli Wings, i Dire Straits e tanti altri, ma i suoi segni restano nei particolari. L'armonica di Love Me Do, gli archi di Yesterday di Eleanor Rigby, la folle costruzione di Strawberry Fields Forever o di Being for the Benefit of Mr. Kite, col nastro tagliuzzato e ricomposto a caso. Il suo principio di vita, il titolo della sua prima autobiografia, All You Need Is Ears, tutto quello che serve sono le orecchie. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.